si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso. Al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.30 di questo sabato 15 novembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. 3380 94 94 per inviare un sms e cacciafotone at radiocittafujiko.it per inviare una mail. Un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando la diretta questo sabato mattina e un saluto a tutti coloro che ascoltano la replica del mercoledì. Sito di riferimento www.cacciafotone.it. E oggi parleremo di un argomento assolutamente particolare, parleremo di giocoleria scientifica in compagnia di Federico Benuzzi. Buongiorno Federico. Ciao. Federico Benuzzi è professore di matematica e fisica presso il liceo classico Alfieri qui a Bologna. È un giocoliere professionista e unisce matematica e giocoleria in una maniera del tutto particolare. In parole povere, il cosiddetto side swoop. Federico, hai 100 parole iniziali per spiegare che cos'è questo benedetto sideswap. Dunque, il sideswap sono, per così dire, la matematica dei giocolieri. Uno strumento cioè sviluppato dal Gandini Juggling Project nell'ultimo decennio, che permette, tramite matrici quadrate, di descrivere e estrapolare tutti gli schemi della giocoleria lanciata. Nascono da riflessioni fisiche unite ad una formalizzazione matematica ed hanno permesso di scoprire schemi che probabilmente non sarebbero mai stati scoperti o eseguiti senza il sideswap. Per intenderci, alcuni giocolieri, anche dei più tradizionalisti, si sono negli ultimi anni convertiti alla matematica dei giocolieri perché è potente, per così dire. Vuoi dire che il sideswap permette alla giocoleria tradizionale di utilizzare la matematica per diventare una giocoleria professionista? Professionista è comunque, però si evolve, diventa qualcosa di, se possibile, ancora più artistico, più vario. Beh, di questo e di molto altro ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Questi sono i Brad Sachs e il brano si intitola Dropping Out of School. bentornati a Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Oggi si parla di giocoleria scientifica. E ospite in studio è Federico Benussi. Ribongiorno Federico. Presente, ciao. Federico, io ti ho conosciuto nel 2005, l'anno internazionale della fisica, in cui tu cominciavi a fare uno spettacolo che viene intitolato Fisica Sognante. Ci descrivi un attimo che cos'è questo spettacolo, che cosa fai all'interno di questo spettacolo? Nel 2005, quando eravamo giovani. Quando eravamo giovani. Dunque, Fisica Sognante nasce nel 2005 un po' per gioco, mi viene proposto da alcuni amici di fisica, visto che facevo il giocoliere professionista già da tempo, di rifletterci, di vedere come la matematica, la fisica, il metodo matematico, il metodo fisico si mischiassero con la giocoleria, la tecnica e l'arte. E quindi è stata inizialmente una sfida. Poi invece è venuto fuori uno spettacolo che dura indicativamente un'oretta e mezzo, in cui si susseguono numeri tecnici, descrizioni fisiche, pezzi di cabaret, descrizioni matematiche, nel tentativo da un lato di far vedere che la matematica trova applicazioni anche particolari, e dall'altra parte ti fa vedere come la fisica o la giocoleria possono essere sfruttate per spiegare la matematica. Federico, la giocoleria per te è un pretesto per spiegare la matematica, o invece la matematica è un pretesto per parlare di giocoleria, che è la tua vera passione? Guarda, no, la mia vera passione sono entrambe, e quindi sono entrambi pretesto per fare l'altra cosa. Ho trovato modo di fonderle insieme, di fondere le due anime, per così dire. Senti, perché l'hai ideato effettivamente? Ma guarda, il perché a suo tempo fu proprio puramente una sfida con me stesso e una sorta di gioco. Poi invece negli anni, perché poi si è sviluppato, è diventato un vero e proprio spettacolo teatrale di divulgazione, nel tentativo di divertire, di interessare e di capire. Senti, facciamo finta che io sia uno spettatore che venga a seguire lo spettacolo. Come si svolge lo spettacolo? In quante parti è formato? Che cosa fai durante lo spettacolo? Ok, allora c'è un monologo iniziale abbastanza breve in cui si vede la doppia personalità del personaggio, il giocoliere e l'insegnante, un po' schizofrenico per così dire. E i tuoi ragazzi vanno in bisibilio, i ragazzi che seguono matematica con te? Beh, insomma, mi seguono. Ecco. Ti seguono. Cantarsi le lodi non è mai. E poi essenzialmente sono quattro parti. C'è una parte di palline in cui si tratta i side swap di cui parleremo oggi. Una parte in cui gioco con i mattoni, quegli attrezzi che vengono utilizzati, quelle scatolette, insomma, per intenderci, in cui si parla di attriti, principi di equivalenza, equilibrio, punti di equilibrio, eccetera. Una parte di monociclo, in cui proietto anche alcuni video girati da me e miei amici, in cui si parla un po' di giocoleria, equilibrismo e quindi leve, eccetera. E poi si finisce invece col diablo, che è il mio attrezzo prediletto, in cui invece si parla di conservazione del momento angolare e altro, ecco. Senti, dove sei stato effettivamente a fare questo spettacolo? Perché nel 2005 io ho visto il tuo primo spettacolo qui a Bologna, poi poco tempo fa, qualche settimana fa, eri a Genova al Festival della Scienza di Genova. Fra il 2005 e il Festival della Scienza di Genova, dove sei andato? Dunque, ho avuto la fortuna di girare tutto con passaparola, perché non mi sono mai pubblicizzato tanto, però sono stato per Life direttamente, ho fatto spettacolo a Ispra, al Centro di Ricerche Europee, sono stato a Bergamo Scienze, qua a Bologna la Scienza in Piazza, quindi ho avuto modo di fare più piazze, molte scuole che mi chiamano per le assemblee di istituto nel tentativo di interessare i ragazzi. Non... Farai questo spettacolo anche durante questa protesta che si sta svolgendo in questo periodo da parte degli studenti, oppure non mi è stato proposto, ma potrebbe essere una buona idea. E il futuro di questo spettacolo quando sarà? Dunque, allora, io ne farò altre su Modena fra poco, e poi non lo so, si vedrà. A Bologna sono in contatto per fare lo spettacolo proprio a Bologna, Scienze in Piazza, a marzo. Non ho ancora definito la data, però ci sarà. Senti Federico, oggi dobbiamo parlare del cosiddetto side swap, cioè sì, di come la matematica si unisce alla giocoleria. Me ne dai un attimo un'idea iniziale, giusto per dare un'introduzione, poi lo esploreremo nella seconda parte della trasmissione. Proviamo, allora. Innanzitutto si sfruttano numeri che descrivono il tipo di lancio, la tipologia di lancio che si può fare con le palline, tutti i possibili lanci che puoi fare. E si sfruttano invece delle matrici, tabelle n righe, n colonne, per poter estrapolare, mettendoci dentro i numerini e shakerando un pochettino, invece gli schemi che poi vai ad eseguire. Quindi è una sorta di prova del 9 in cui uno mette dentro i numeri e tira fuori il risultato e lo sfrutta per fare. Come ci siamo detti prima, questo metodo è molto utile per creare i cosiddetti tricks. Adesso spiegano che esatto. Cosa sono questi tricks, perché è una cosa prettamente sì. Per giocolieri. Tricks in italiano potremmo dire i numeri, no? Quindi il tentativo di lo schema, ecco, per intenderci. Sì, la cosa particolare è che con i set swap sono stati scoperti tricks che altrimenti non sarebbero probabilmente mai stati scoperti. Perché sono, ora parlo di cose un po' tecniche, però esercizi in cui le mani tirano in modo sincrono, in cui tirano sia la destra che la sinistra simultaneamente, un numero dispari di palline, sono cose che non ci aspettava, insomma, che venissero scoperte. Federico, noi ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo musicale, torniamo in studio e parliamo effettivamente del side swap. Sono qui. Bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi si parla di giocoleria scientifica. Federico Benuzzi proverà a spiegarci che cos'è il side swap, però prima prendete carta e penna. Dato un numero n di lanci, creiamo una matrice n per n per fare cosa? Ok, ci proviamo. Dunque, innanzitutto bisogna capire che cos'è in giocoleria uno schema base. Ok. Ora, indipendentemente che tu stia giocando con 3, 4 o 5 palline, uno schema base è un esercizio in cui ogni singola pallina fa la stessa identica cosa delle altre e in cui le mani lanciano in modo alternato, prima la destra, poi la sinistra, prima la destra, poi la sinistra. Okay. Per intenderci, se qualcuno ha presente com'è giocare con 3 palline, avete presente il classico schema a 8 in cui le palline formano questa sorta di simbolo dell'infinito? Esatto. Mm-hmm. Ogni pallina passa da destra a sinistra, da sinistra a destra e fanno tutte indicativamente la stessa traiettoria e le mani si alternano. Ecco, questo è uno schema base. Ok. Dunque, in uno schema base, fissiamoci su 3 palline. Le palline, se le mani vanno a ritmo costante, quindi lo esegui con regolarità, le palline vengono lanciate in sequenza. Prima, seconda, terza, poi prima, seconda, terza. La prima pallina, prima di essere ripresa e poi rilanciata, deve aspettare che vengano riprese e rilanciate le altre due. Quindi la prima, poi prese e rilanciate la seconda e la terza e poi di nuovo la prima. Perché altrimenti si avrebbero le mani occupate. Esatto. E quindi Una pallina passa in aria un tempo che è indicativamente il doppio di quello che passa in mano. Ok. Questo tipo di riflessione la puoi fare con tutti i numeri di palline, per esempio 4 palline, si può fare lo stesso ragionamento: prima, seconda, terza, quarta, prima, seconda, e quindi la prima deve aspettare la seconda, la terza, la quarta. Quindi il tempo di volo di una pallina in proporzione alle altre qual è? Beh, se prendi 3 palline è il triplo, scusami, è il doppio. 4 palline è il triplo. Se prendi n palline, a quel punto una pallina passa in mano un tempo e ne passa in aria n-1. Questa è l'idea. Bene, prendiamo questa riflessione, n-1 tempi in aria, con questa unità di misura di tempo un po' strana che potremmo chiamarla il lancio. Ecco, l'altezza. Galileo fu il primo a intuire, per poi verificare sperimentalmente, che oggetti che cadono in un campo gravitazionale uniforme percorrono spazi che sono proporzionali al quadrato dei tempi che impiegano a percorrere. In poche parole, un mezzo gt al quadrato. Esatto. L'equazione cinematica classica del moto uniformemente accelerato. Dove g sta per la costante di gravitazione sulla Terra, esatto, e t sta per il tempo al, esatto, quadrato. Esatto. Quindi cos'hai? Hai che l'altezza a cui giunge una pallina è proporzionale al quadrato del tempo che impiega a raggiungere quell'altezza. Ma visto che il tempo di salita e il tempo di discesa di una pallina sono uguali se le mani sono alla stessa altezza, come negli schemi base è previsto essere, hai che cosa? Hai che l'altezza a cui giunge è proporzionale, potremmo dire, anche al tempo di volo tra lancio e presa, essendo esattamente il doppio del tempo di salita. Ed è in qualche modo responsabile di quante palline ho in mano. Esatto, esatto. Dipende proprio da n-1, dove è il numero di palline. A quel punto l'altezza a cui giunge è n-1 al quadrato. Questa è l'altezza. In una unità di misura un po' strana, perché sono lanci al quadrato, potremmo dargli un nome, per intenderci, in onore di una mia amica che attualmente sta raccontando favole in Africa. Potremmo chiamarli i bepi, ecco. Dunque, quindi, tre palline cosa succede? Tre palline passano un tempo in mano e due tempi in volo. 2 per 2, 4 tempi, 4 di altezza, 4 bepi, l'altezza a cui deve giungere. Ok, e quindi bepi è una quantità standard che potrebbero essere 2 centimetri, 4 centimetri, 1 metro, 2 esatto, metri, esatto, eccetera. Esatto, basta dargli un valore. Una per intendersi, per giocare con tre palline, 3 meno 1, 2, 2 per 2, 4 bepi, per giocare con 4 palline, 4 meno 1, 3, 3 per 3, 9, la proporzione delle altezze con 3 e 4 palline sta di 4 a 9. Vuoi trasformarli in centimetri? Scegli un valore per i bepi, diciamo 5 cm, 5 per 4 20, 5 per 9 45, 95. Per giocare alla stessa velocità con le mani, indipendentemente mentre che tu stia giocando con 3 o 4 palline, devi giocare altezze che stanno in proporzione di 20 e 45 cm. Ora, di questi numeri che cosa me ne faccio? Li prendi e li butti nel cestino. No? Bene. Non è vero. Mi serviva a definirlo per questo motivo. Ora, da ora in poi chiamerò altezza 3 un lancio tipico dello schema di 3 palline. Ripassiamo velocemente. Un tempo in mano, 2 in aria, l'altezza è 2 per 2, 4 bepi, o se preferite 20 cm. Questo per me è il 3, il 4 di conseguenza, il 5 di conseguenza. Ora cominciamo a costruire i side swap. Innanzitutto bisogna scegliere il numero di lanci che vogliamo essere lungo lo side swap, per intenderci il periodo, ogni quante volte vogliamo che lo schema si ripeta identico a se stesso. Ok, se voglio fare per esempio un 8, se lo voglio fare 3 volte l'8, il numero di set swap sarà 3 volte. Esatto, esatto, questa è l'idea. A quel punto cosa fai? Disegni una tabella, una matrice quadrata di lato, in questo caso 3, se scegliamo essere 3. Righe e colonne, periodo. Normalissimo, come le parole crociate. Righe e colonne, esatto, come il sudoku se preferisci. Come il sudoku. 3x3. A quel punto devi scegliere, una volta che la tua tabella che rappresenta la scansione temporale, devi scegliere con quante palline vuoi giocare. Per esempio 5 palline. Ora la parte difficile dal punto di vista radiofonico da spiegare. Scriviamo il 5, che è il numero di palline con cui abbiamo scelto di costruire il side swap, sulla diagonale principale, quella che va da basso a sinistra in alto a destra, questa io intendo. 5, 5, 5. Quindi scendendo dall'alto della destra al basso della sinistra, sulla diagonale principale ci metto tutti i numeri 5 nelle, esatto, caselline, esatto, che ho diviso. Esatto, li ho scelti volutamente diversi, numero di palline e numero di lanci, così da far vedere che sono indipendenti. Uno può farlo 5x5 con 5 palline o 7x7 con 5 palline. Comunque una matrice quadrata. Esatto. A quel punto va completata, e questa è la cosa un po' più particolare da spiegare, se uno ha carta e penna capisce meglio. Il primo 5 sopra di sé ha una casella bianca, mettiamo un 6. Il secondo 5 sopra di sé ha una casella bianca, mettiamo un altro 6. Il terzo 5 sopra di sé non ha niente, perché era quello in alto a destra e quindi lì finisce. Tra i due 6 c'è una casella bianca, mettiamo un 7. A questo punto la parte superiore della tabella è completata. La parte inferiore, sotto il primo 5 non c'è niente, perché quello in basso a sinistra. Sotto il secondo 5 possiamo mettere un 4. Sotto il terzo 5 un altro 4. Tra i due 4 c'è una casella buca, possiamo mettere un 3. A questo punto abbiamo una tabella completata. Senti, li rileggiamo per righe, per colonne, sì, giusto? Per... Le leggo per colonne, che per ha più colonne, significato. Okay. Partendo dalla prima, 765, la seconda 654, la terza 543. Prima, partendo da? Sinistra. Scusami. Sinistra, ok. Sinistra. Ora, cosa rappresentano le colonne? Le colonne sono il primo, il secondo e il terzo lancio del set swap di periodo 3 con 5 palline. Ok. Se vogliamo ripetere set swap identico a se stesso, la prima colonna diventa a questo punto il quarto lancio. Fatto il terzo, puoi tornare indietro e ricominciare. Benissimo. Cosa rappresentano i numeri? Le altezze, per intenderci in bepi, a cui devi lanciare le palline per poter completare lo schema che hai estrapolato. Ok. Ora bisogna scegliere i numeri. Hai la prima colonna, scegliamo tra 7, 6 e 5, per esempio un 7. A quel punto cancelli la colonna perché il primo lancio è stato fatto e cancelli anche la riga. Quindi tanto per dire, cerchio il 7 e tutti i numeri che ci sono sopra e sotto il 7 e a destra, anzi a sinistra del 7, li cancello. Perfetto, questa è l'idea. Il perché cancelli la colonna dal punto di vista temporale è abbastanza banale, hai fatto il primo lancio, passi al secondo. Ma perché cancelli la riga richiederebbe una riflessione un po' particolare. Vi dico il perché, poi magari a casa ci riflettete e come esercizio provate a capirlo. Ecco. Di fianco al 7, alla sua destra, c'è un 6. Se io lancio con la destra un 7 e con la sinistra al secondo lancio un 6, vi ricordo che i set swap prevedono in questo metodo di lanciare prima con la destra, poi con la sinistra, prima con la destra e poi con la sinistra in modo alternato, è che, vi dicevo, se lanci con la destra un 7 e il tempo dopo con la sinistra un 6, queste due palline arriverebbero sulla stessa mano contemporaneamente. E questo matematicamente si vede, insomma. Sì, sì, si vede. Quindi se uno prova a ragionarci un attimo, però ora abbiamo anche altre cose di cui parlare, quindi conviene saltare la parte. Per okay. Esercizio, può essere un buon esercizio provarci, ecco, a capirle perché. Dunque, seconda colonna, mi rimangono il 5 e il 4. Scegliamo tra i due, per esempio, il 4, cancello riga e colonna del 4 per i motivi di prima, e a quel punto mi rimane come possibilità per la terza colonna soltanto l'ultimo 4 da andare a scegliere. A questo punto, quali numeri ho cercato? 7, 4, 4. Questo è il mio set swap. Quindi i side swap sono questi tre numeri, effettivamente. Esatto, e vediamo cosa significa. Tu devi prendere le tue palline e diciamo che parte la destra lancia un 7, la sinistra un 4, la destra un 4, dove 7, 4, 4 sono lanci tipici degli schemi di 7 palline, 4 palline, 4 palline, ma vi ricordo che ne abbiamo solo 5 in mano, quindi questa cosa è particolare. Quindi il numero in quantità denota l'altezza, mentre il numero di numeri, tra virgolette, descrive solamente il numero di palline che io sto lanciando. Esatto, esatto, questa è l'idea. Ora, puoi ripetere lo schema più volte, 744, 744, 744, ripeto in modo iterato. Infatti, tra giocolieri si dice che tu sai fare un set swap soltanto se lo fai ab libitum. Vuol dire che io con la destra lancio una pallina ad altezza 7, con la sinistra lancio una pallina ad altezza 4 e con la destra ritorno a lanciare una pallina ad altezza 4. Esatto. Questo prima, seconda, terza pallina. Esatto, prima, questa seconda, cosa, terza, esatto, la ripeti continuamente, non avrai mai due palline in mano, tutti i tempi sono riempiti, le mani lanciano continuamente a destra, a sinistra, a destra, a sinistra una pallina. 7, 4, 4 modificate per il baby. È una goduria farlo, questo è bellissimo. Cosa particolare, 7, 4, 4, sommiamo tra di loro le altezze. Dividiamo la somma per 3, che è il numero di lanci. 7, 4, 4 sono tre numeri. 7 più 4 più 4 fa 15, diviso 3, che è il numero di lanci, fa 5, dove 5 è il numero di palline con le quali stavo giocando. Ora un matematico mi direbbe, beh, grazie, sono una permutazione. Grazie, esatto. Però una permutazione dove i numeri hanno un significato fisico. Anche Sudoku ha a che fare con leggi simili, ma il significato fisico è un po' diverso. Qui invece c'è un significato fisico, quindi per casa, se volete come esercizio, potete provare a riflettere sul perché hai questa regolarità. Senti, io ho una curiosità prima di lasciarci con un pezzo musicale. Sì. Il record di palline lanciate con questo metodo, col size swap, qual è? Allora, il record del mondo è detenuto da Ben Beaver e lancia 12 palline 12 volte. 12 palline. Perché 12 palline e non 13? Beh, sai, 6 palline per mano da gestire non è banale. Ma c'è anche un'altra riflessione, perché solo 12 lanci e non di più? Ora, a parte il fatto che potresti sbagliare in termini di angolo con cui lanci la pallina, quindi visto che vanno molto in alto rischi di, no, in termini di gittata, lanciarle troppo lontano. Ma c'è anche un problema fisico, non scienza, intendo fisico i muscoli, perché 12 meno 1, 11, a quadrato 121 per 5, 605, 6 metri e 5 centimetri. Quell'altezza, mg per h, lascia che la pallina pesi poco. È un lavoro considerevole, senza contare che i lanci vengono fatti in un piccolo tempo. Se dividi il lavoro per il tempo, ottieni la potenza con cui devi lanciare quelle palline. Quindi in effetti bisogna avere una muscolatura assolutamente incredibile per poter lanciare. Sembrano culturisti, anche se culturisti non sono, hanno delle braccia enormi. E ritorniamo in studio con Caccia al Fotone per le considerazioni finali di questo cosiddetto Sideswap in compagnia di Federico Benuzzi. Federico, una domanda che vi voglio fare è: questo spettacolo tra virgolette matematico giocoleristico, fa presa sui ragazzi? Guarda, provo a risponderti così. L'anno scorso ho fatto spettacolo a Brescia per le Olimpiadi delle Scienze e quasi 500 ragazzi in un'aula magna. Il microfono smette di andare. Per 10 minuti ho fatto spettacolo con 500 ragazzi davanti, praticamente a voce. Spingi pure sul diaframma finché ti pare, ma... E non volavo una mosca. Ho fatto 10 minuti di parlato, tra l'altro una parte fisica, non di giocoleria in quel momento, e non ho avuto problemi a terminare lo spettacolo tranquillamente. Quindi con tu, una grande attenzione. Tu paragoneresti questo concetto di spiegare la matematica con Sideswap con lo stesso concetto di spiegare la matematica tramite il cubo di Rubik? Sì, secondo sì. Te affascina? Secondo me c'è. Attenzione, però, adesso mi sento in dovere di dire una cosa. Io credo che vanno fatte entrambe le cose, cioè anche la parte di formalizzazione difficile, sia per allenare i ragazzi a fare certe riflessioni in un certo modo, sia la parte di far vedere, insomma, come nascono certe cose prima di essere applicate. Io penso che sia importante. Però non solo quella, non solo l'altra, trovare una buona via di mezzo in cui e hai... Tu ci tieni molto a dire che la giocoleria è uno sport difficile e sì, che come la vita sì. E come la matematica ha bisogno di applicazione. Spesso termino così il mio spettacolo. Sì, è così, uno per poter godere deve sacrificarsi un pochettino, e così per la giocoleria, così per la matematica. È ovvio che uno dice: la matematica non mi piace, tanto non l'ho mai studiata. Grazie, so che non si capisce, non... bisogna provarci. Federico, per vederti all'opera come si fa? Dunque, di spettacoli in giro ne ho abbastanza. Uno può cercare su YouTube. Per trovarmi basta digitare su YouTube Giocologi, non giocolieri, ma oggi. Giocol oggi. E trovi un video di Diablo, quindi se poi magari mandatemi qualche commento. Ecco. Per scriverti un'email? Ah, facilissimo. Federico Benuzzi, @alice.it. Benuzzi con due Z, sono bolognese, perdonatemi per la pronuncia. Federico, grazie ancora per essere venuto in diretta, grazie per averci spiegato la matematica in maniera tra virgolette giocosa. In bocca al lupo per i tuoi spettacoli. Noi intanto salutiamo tutti i radioascoltatori e buona scienza a tutti.